173. Fegato di maiale fritto. Gli animali superiori sono forniti di una glandola biancastra, il pancreas, che, collocata fra il fegato e la milza, sbocca col suo condotto escretore nel duodeno. L'umor pancreatico, di natura alcalina, vischioso come l'albumina, contribuisce con la bile a sciogliere le sostanze alimentari, ma la sua azione è più specialmente rivolta a convertire le sostanze grasse in una emulsione che le rende più digeribili. Codeste secrezioni, i succhi gastrici e la saliva, contribuiscono poi tutti insieme a compiere una digestione perfetta. Per la sua somiglianza alle glandole salivari, le comuni animelle, e per il suo delicato sapore, il pancreas è conosciuto da molti col nome di animella del fegato. In Toscana, quello del maiale viene chiamato stomachino. A mio parere, per sentire il vero gusto del fegato di maiale, bisogna friggerlo naturale, a fette sottili, nell'ardo vergine, e mescolato con lo stomachino a pezzetti. In questa maniera va levato dalla padella con un poco del suo unto, condito con sale e pepe, e mentre è ancora bollente gli va strizzato sopra un limone, il cui agro serve a smorzare il grassume. Le fette sottili di fegato si possono anche infarinare prima di friggerle.